Che ne pensa anche proprio in termini tecnici? È fattibile una cosa del genere? Guarda, io l'ho detto più volte, l'ho scritto più volte, e l'ho anche realizzato un esempio. A Marsiglia avevamo un quartiere difficilissimo, molto molto, ma molto di più difficile di quello che è Tor Bella Monica. Alla fine che è successo? Abbiamo una parte è stata demolita, una parte è stata ricostruita con architettura contemporanea, una parte è stata diminuita gli skyline, un'altra parte è diventata parco. Beh, c'è stato un lavoro molto fine di agopuntura che ha portato poi a far rivivere il quartiere. Perciò la cosa è possibile. Io non credo che adesso non ho sentito quello che dice il sindaco Alemanno perfettamente, però non credo che Alemanno pensasse a tavola rasa, perché lì vivono 35.000 persone, ci sono sentimenti, ci sono, vede, anche in un quartiere difficile si consolidano dei sentimenti, nascono i propri figli, lì ci sono pezzi della propria vita, anche difficile, anche non sempre felice, però questa fa parte di un sentire comune. Allora, quando si interviene in una città, non è che si interviene in aperta campagna dove non esiste quasi nulla, è solo il rispetto ambientale la parte più importante, ma c'è questo rapporto importante fra la città e gli abitanti, e gli abitanti sono la cosa più importante della città. Perciò la cosa è fattibile, ma fatto con molto cesello, con molta attenzione.